Buongiorno, buon mese d'ottobre a tutte le mattiniere, i mattinieri di Radio Città Fujiko, prima puntata 2 ottobre 2023, non solo della settimana ma anche del mese. A darvi il buongiorno al microfono in regia la voce di William Piana, benvenute e benvenuti al Breakfast Club. Quindi attenzione, sì, tanto entusiasmo, ma ottobre è un mese che accompagna sempre a un abbassamento delle temperature, per cui ok, tutto bello, cielo sereno, anche oggi magari ci godiamo qualche scampolo di bella stagione, però è traditore, io lo chiamo il mese dei raffreddori, perché usciamo in spadino, poi dal bolognese vi dirò perché si usa questo termine, essere vestiti leggeri, uscire in spadino, molti di voi magari lo sapranno, però precisiamo per chi ha la passione del dialetto felsinio. Intanto vi posso dire che per chi ha la passione del suono, oggi avremo altri suoni in intersezione con i magazine, un brano del buongiorno che ci accompagna verso il suono e poi la lettura delle prime pagine, linea al GR di Radio Popolare e poi la rassegna stampa culturale tratta dagli inserti usciti allegati ai quotidiani durante il weekend. Il brano del buongiorno dei Mikaton, la voce di Lisa Bassange, si intitola To The Sound e apre la nostra playlist. Vi auguro una buona giornata, una buona colazione, un buon ascolto, a tra poco. We'll be right back. avere gusto. Questo è un brano di gran gusto, nel senso che ha piacevolezza nell'ascolto, una narrazione musicale ben costruita, affatto mainstream e nello stesso tempo con una scrittura e una piacevolezza all'ascolto molto interessante. Mikaton Sonar Collective, To The Sound, il suono oggi protagonista, con due personaggi fondamentali per la musica ambient che troviamo nei magazine, e quindi li ho traslati anche all'interno di altri suoni. Magari quella locuzione felsinea me la spiegherete, me la direte voi, uscire in spadino. Land fore in spadin. È andato fuori così in spadino, nonostante la temperatura. Che vuol dire? Quali sono le origini? Ho qui il libro per quanto riguarda i magazine, che è per voi al 333-180-9494 per co-conduzione e per i vostri messaggi mattutini al Breakfast Club di Radio Città Fujiko. La lettura delle prime pagine oggi particolarmente ridotta, 222 Corriere della Sera, Repubblica, a seguire Il Fatto e Il Domani, la chiusura con Il Carlino e Il Giornale. La lettura delle prime pagine offerta da... La lettura delle prime pagine vi è offerta da... Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com. Si comincia, Corriere della Sera, titolo principale, salta la detassazione delle tredicesime, migranti, Crosetto e Tajani contro Berlino, grande complotto, parla Giulio Tremonti, no, grande debito, intanto Stellantis e Magneti, sfido Landini in TV, parla Carlo Calenda, i rischi e le sfide, l'Europa si copre di nubi con l'editoriale. E poi a centropagina i timori per gli aiuti a Kiev. Slovacchia vince Fico, l'Ucraina non prioritaria, dichiara il neo presidente. USA zero fondi a Zelensky, quindi l'hanno prima riempito di armi e di denaro e di promesse, hanno provocato la Russia, hanno poi mandato avanti per procura l'Ucraina, che ha portato il massacro di civili e l'enorme spesa sia dal punto di vista economico che di risorse, e adesso a salut mingen per quanto riguarda appunto le locuzioni felsine. Però dai, possiamo invitarlo a Sanremo, l'ultimo audio tra le fiamme è quello che resta purtroppo dalla Spagna, in quanto un incendio ha devastato una discoteca, strage in discoteca. Chiude così con la cronaca il Corriere. Prendiamo la Repubblica, caccia 10 miliardi, la legge di bilancio, sono quelli che ancora mancano per coprire la manovra, non bastano i tagli ai ministeri. Sempre meno soldi sulla sanità, ma dai, ansia per il giudizio delle agenzie di rating sul debito. Giorgetti, se hanno letto la NADEF, senza pregiudizi, siamo tranquilli. Sì, sì, sai che fine ha fatto tranquillo Giorgetti? Non lo posso dire. Parte il carrello antinflazione, ma il risparmio è di pochi centesimi. Meloni, gli spettri tecnici e il PD e l'editoriale di Ezio Mauro. Senza un centro di gravità il commento, e per la democrazia grafia fondo pagina, perché ci servono gli immigrati. La Slovacchia si consegna. al filo russo fico, imbarazzo del PSE. Beh, il PSE dovrebbe essere imbarazzato per ben altre cose. Comunque, il piano dei serbi per conquistare il Kosovo del nord, altre zone pericolose, Erevan ora trema, l'Azerbaigian ci invaderà. Chiudiamo la Repubblica per poi dare spazio alla seconda parte, composta dal Fatto Quotidiano e il Domani. The Willem Scream, loro sono i Bamboos, con la voce di Megan Washington. Torniamo tra poco, continuando la nostra lettura delle prime pagine. About my dreams, I don't know about my dreaming anymore. All that I know is I'm falling, falling, falling. Might as well fall in. I don't know about my I don't know about my loving anymore. All that I know is I'm falling, falling, falling. Might as well fall in. Ha trovato un brutto cliente stavolta. È che da colonia dell'impero ci finiamo dentro anche noi in quanto Italia. Poi il Fatto Quotidiano e il Domani dal Fatto. USA, Slovacchia, Polonia and Company, il fronte pro Kiev perde i pezzi, basta armi. Fico a Bratislava e il Senato americano suonano la ritirata. Incubo prescrizione, la buona fede lo avevano chiesto loro, le vittime di Viareggio e del Morandi contro il ritorno della ex Cirielli. Fallimento e Crosetto torna ad attaccare la Germania. Tunisi rinnega il patto con Meloni e Ursula. I confini sono vostri, ecco. Intanto troviamo sulla spalla del Fatto ospedali in rivolta, sanità 2 miliardi in meno. Vai a correre dietro a tutti i soldi che hai dato per la guerra. Corri dritto. Addio a cure, nord, sud, Andrea Orlando, il PD ha bisogno delle correnti, non di padroni, parla Andrea Orlando. Chiudiamo il Fatto Quotidiano con le due righe sopra la testata. Gasparri e altri forzisti attaccano i giudici che disapplicano il decreto legge migranti. Nemici della sicurezza, solo perché diversamente da loro, conoscono le norme europee. Prendiamo il domani per concludere questa seconda parte. Le Olimpiadi infernali. Milano Cortina e una Via Crucis, inchiesta su un fallimento di successo veramente fatto ad arte, per poi dopo andare a prendere soldi dallo Stato, cioè i nostri, per gli investimenti tra virgolette che è andato ai privati. Ritardi, costi aumentati, sprechi, gli effetti della crisi climatica, l'impatto dei giochi olimpici rischia di essere devastante per un territorio troppo facile. L'illusionista Meloni sta svelando i suoi trucchi tra NADEF e migranti, vizi ed errori, la transizione ecologica frena, le strategie sbagliate, la nuova coalizione sociale, Landini e la piazza che fa paura alla destra. Da Bratislava a Washington, prime crepe nel fronte pro Kiev. Chiudiamo il domani, 7:18 minuti, lo stacco musicale vede Quantic con la voce di Alice Russell, I'll Keep My Light in a Window, e tra pochissimo rientreremo con le ultime due testate per concludere la lettura delle prime pagine di oggi, 2 ottobre 2023, buon ascolto. Tsunami Magazine con altri suoni e due giganti della musica ambient con la A maiuscola. E poi vi terrò aggiornati, ma questo poi in settimana, terminando col Jet Live di venerdì sull'apertura del Torrione, anche questa un'apertura con la A maiuscola, il Jazz Club Estense. Il lavoro con la sezione archi e la voce di Alice Russell. Look Around the Corner, il disco per Third After Record. Resto del Carlino di Bologna, titolo principale Urso, dichiara il patto sui prezzi aiuta i redditi bassi. Intervista al ministro delle imprese, già 23.000 aderenti al carrello tricolore, nessun timore per i deficit, dopo Meloni solo le elezioni. Manovra 2 miliardi contro la denatalità, si lavora all'aumento, all'assegno per il terzo figlio, esaurito in un giorno il bonus trasporti. L'eredità del governo Draghi, ai sindaci raddoppiate le identità. A centro pagina la cronaca, inferno in discoteca, un incendio devasta un locale in Spagna, 13 morti e 3 dispersi. Chiudiamo a fondo pagina, Slovacchia vince l'amico di Putin Robert Fico, stop armi a Kiev indipendentemente dalla sua posizione politica, stop guerra e stop armi a Kiev è la posizione che insomma tengo sempre e comunque. Torna la giustizia militante, i segreti della toga pro ONG, la magistrata che ha respinto il decreto e messa in libertà i migranti, sui social chiedeva la sfiducia per Salvini e le frontiere aperte. Nel Mediterraneo a caccia di scafisti e sul barchino spuntano i macete. Dai, il reportage esclusivo, esclusivo molto, eh. Occhio, mezza Unione Europea è stanca di aiutare Kiev, la vittoria del filo russo Fico in Slovacchia e i dubbi Ungheria e Polonia. Andiamo sulla spalla del Giornale, se i radical chicor si lamentano della Milano che hanno creato. E chiudiamo, Marzabotto accusa, niente soldi da Roma, ma si erano dimenticati di chiedere i fondi, informatissimo il Giornale. Siamo giudici o generali, Marco Zucchetti è l'editoriale che chiude la nostra lettura delle prime pagine sul Giornale. Lo stacco musicale è degli Hidden Orchestra, poi andremo in pubblicità, dopodiché si rientra col GR di Radio Popolare, poi nuovamente in studio con altri suoni che sarà in intersezione con i magazine. Disco Night Walk, Hidden Orchestra, il brano Footsteps, a tra poco. studio, diretta a Radio Città Fujiko, il Breakfast Club di inizio settimana del lunedì 2 ottobre, vista l'occasione tra l'incrocio dei magazine e della nostra rubrica di musiche inconsuete, in quanto alias edizione del sabato del Manifesto e Robinson di Repubblica riportano due approfondimenti su due grandi artisti che hanno portato nelle sonorità ambient innovazione o conferma di emozione tra elettronica, studio di approfondimento musicale, sguardo verso le arti applicate, le arti figurative, installazione e video arte. Cominciamo dal primo. Il primo nasce a New York il 5 maggio del 1949, compositore, scrittore, critico musicale e giornalista. Collabora con una rivista molto molto bella, anzi di più, è The Wire. Se avete avuto modo di sfogliare The Wire, per quanto riguarda la musica contemporanea o sperimentale, una vera e propria Bibbia. Lui, voce importante di tutto ciò, viene ricordato anche per essere stato membro dei Flying Lizard, questo gruppo con Art Linz, insomma una struttura musicale con un primitivismo per quanto riguarda David Toop, che insieme all'elettronica dà uno sguardo che resta a tutti i tempi, nel tempo e nello spazio. Proprio queste sono le sonorità sul quale David Toop ha fatto ricerca. Una delle label più importanti con le quali ha collaborato è la Sub Rosa Record, di cui sono molto appassionato tra la ricerca della musica sperimentale. Questo aspetto di primitivismo musicale si trova nella sonorità analogica con oggetti o con strumenti particolari che insieme a dei tapes, delle registrazioni di field recording danno all'ambient una visione che prevarca l'aspetto del tempo e soprattutto dà un'emozione di ricerca continua in queste strane armonie alternate con delle ritmiche a volte inquietante, ma per lo più, come dico sempre, per alzare l'asticella dell'ascolto. Per Sub Rosa Record ho trovato questo disco Black Chamber, dove appunto il suono del clarinetto che state ascoltando va a trovare lo spazio all'interno di questi loop, di questi tape registrati dallo stesso David Toop, e appunto con questo apriamo questa mini playlist. Ultrasuoni, dal quale non nascondo un'assonanza con la rubrica Altri suoni di alias del Manifesto, David Toop, un affresco ambient, è uscita una nuova edizione del libro Oceano di suono. L'intervista qua è con l'autore, un percorso coinvolgente, poco ortodosso, attraverso le maglie della musica e della cultura moderna, una strumentazione analogica molto ampia con utilizzo di strumenti quanto mai diversi tra di loro. Le collaborazioni vanno da Herb Herbie Hancock, Brian Eno, Miles Davis, da Ornette Coleman, insomma delle voci più che importanti per il panorama musicale, per abbattere qualsiasi tipo di barriera. David Toop per Sub Rosa, Black Chamber, il disco che stiamo ascoltando. Curiosità, Sub Rosa, che significa? Vuol dire sotto rosa e significa top secret. Quando arriva una lettera, o per meglio dire arrivava una lettera accompagnata da una rosa, vuol dire che era un messaggio molto molto riservato per quanto riguarda un linguaggio esoterico templare, per cui anche questo aspetto dal nome della label lascia intravedere e intendere molto per quanto riguarda una certa realtà di musica di ricerca e anche una forbita cultura per quanto riguarda la denominazione di questa etichetta molto molto particolare nella ricerca sperimentale. E ora parliamo di un altro artista su Robinson di Repubblica, il mestiere di scolpire il suono. Lui è Brian Eno. Definito il padre della musica ambient con la serie Ambient, appunto, dal primo volume che ascolteremo in apertura, o meglio in chiusura di questa mini playlist, con Music for Airport Ambient One. Nome lunghissimo all'anagrafe è Brian Peter George St. John de Baptiste de la Salle Eno. Nasce il 15 maggio del 1948, compositore e produttore discografico britannico, conosciuto meglio come Brian Eno. L'articolo, il mestiere di scolpire il suono. Non sapevo suonare nessun strumento, non c'era mai posto per me. Per quel modo, così mi iscrissi a una scuola d'arte e intravidi una nuova possibilità quando un insegnante mi fece conoscere il lavoro di John Cage. Quando iniziai a fare registrazioni all'inizio degli anni 70, scoprii un mondo relativamente inesplorato che scaturiva dalle possibilità di questo nuovo mezzo. Due collaborazioni: David Bowie con la trilogia di Berlino, la collaborazione con i Talking Heads negli anni 80 e 90. Le sue origini però sono dietro le quinte con i Roxy Music, consigliato da Robert Fripp, leader dei King Crimson, per i quali Brian Ferry, leader dei Roxy Music, aveva fatto un'audizione come cantante. Beh, raccomandò i Roxy Music alla propria etichetta discografica, la Highland Record, che dopo averne apprezzato alcune tracce, pubblicò due album che contribuirono a rendere noto lo stile di Brian Eno. Roxy Music nel 72 e For Your Pleasure nel 73. Anni Brian Eno, di cui abbiamo ascoltato in precedenza un brano tratto da Small Craft on a Milk Sea, un disco che esce per la prestigiosa etichetta di Manchester, la Warp Record, un gigante per quanto riguarda le pubblicazioni in musica elettronica. Per la Warp in seguito inciderà anche Lux, secondo me un disco un po' più debole. Certo, lui ha una discografia sterminata e concluderemo ascoltando Ambient One Music for Airport qualche minuto. Ovviamente ora siamo tornati in questa intersezione tra Brian Eno, appunto lo spazio definito il padre della musica ambient, le collaborazioni anche nel pop con Roxy Music e Talking Heads, nel glam rock con David Bowie, per un aspetto primario e nello stesso tempo d'arte primitiva con suoni analogici seppur traslati, come dicevo prima, in un tutti i tempi che è quella di David Toop. Questi due artisti sono dei fondamentali nella musica ambient, eh? Musica con le djembe e queste sonorità a corda e a percussione africane intersezionate, come ho detto prima, con l'elettronica, rendono un aspetto originale a quello che è un oceano di suono. La edizione nuova del lavoro di David Toop, come ho detto, anche giornalista per The Wire, che è una bibbia per gli appassionati di musica sperimentale. E vi lascio qualche minuto sfumando da Black Chambers questo brano, da queste camere nere di David Toop, per portarvi in questo gate, in questo aeroporto, con il capolavoro Ambient One di Brian Eno, Music for Airport. Usciranno 4 volumi, sono da avere tutti 4 per gli amanti di musica elettronica e musica ambient, e appunto ho voluto iniziare con questo dialogo tra due grandissimi musicisti e allo stesso tempo ho colto l'occasione per i due articoli su Robinson di Repubblica e su Alias nell'edizione del sabato del Manifesto, con altri suoni e magazine. A tra poco, dopo la pubblicità. per avere un lavoro che ha a che fare con i tessuti. Pensate, questo romanzo ha vinto il premio Goncourt, uno dei premi più importanti a livello mondiale, un premio francese nel 2022. Ha vinto questo riconoscimento per il romanzo d'esordio Etienne Kern per l'Orma. Ho detto che appunto si parlava di tessuti, è il sarto volante. Però a proposito di abiti, come ho già anticipato durante la lettura delle prime pagine, che significa o cosa si intende con il termine dialettale quando si fa una critica a uno, si nota l'abbigliamento di una persona e si dice è vestito in spadino, è uscito in spadino, che si intende? Magari mi dite anche il perché, se no ve lo dico io, Buongiorno a te Sergio, beh ti piace Brianino, lui è un grandissimo. Poi saluto anche Cristina, ciao Willy, buongiorno, che bel modo di iniziare la settimana, grazie, grande Brianino, grandissimi voi, Sergio, Cristina, mattiniere, mattinieri dei 103.1 per la prima colazione in diretta al Breakfast Club, un buon ascolto e una buona giornata. Arrivano adesso i messaggi, evidentemente il servizio era bloccato, quindi do il buongiorno seppur in ritardo a Fabio per quanto riguarda le prime pagine. Ma come tagli alla sanità, non erano i nostri angeli, i nostri eroi, i nostri protettori, poi alla fine del giro massacrati come sempre. Buongiorno anche a Matteo, beh Matteo ne parleremo, per arrivare a venerdì abbiamo tempo, quindi attenzione, venerdì faremo due concerti ambient nei garage sotterranei di Corte Popolare 3 in Bolognina, suoni e umanità, allora Matteo stiamo in contatto che ne parleremo in altri suoni e intanto grazie per questi graditissimi oltre buongiorno che arrivano al 333-180-9494. Leggo solo ora perché evidentemente qualcosa nella comunicazione si era bloccato. Questa digitalizzazione qua gioca brutti scherzi. Paradossalmente era meglio quando la bella grafia, la calligrafia si scriveva a mano. Ma è l'apertura con la Domenica del Sole 24 Ore. Elogio della scrittura a mano, fondamenti del sapere. In un'opera monumentale, I custodi della memoria, l'archeologo Louis Godard ricostruisce mitologie e fatti relativi all'invenzione della parola scritta. Un modo anche per riflettere su un atto solenne il cui fascino perdura anche nell'era dei tablet. Bella, la scrittura musicale di Lee Konitz in questo disco, accompagnato da Jimmy Giuffre e anche Bill Evans, grandi scrittori in musica in questo caso, una bellissima grafia in musica. E come, ne parleremo, perché a proposito di Lee Konitz ci saranno interessanti sorprese al Jazz Club di Ferrara nel main concert. Ora però scriviamo con quella che è un'immagine a centropagina della Domenica che da sempre mi ha affascinato, e ho scoperto grazie a questo articolo che questa statua ben conservata, risalente a 3000 anni prima della nascita di Cristo, rappresenta, ovviamente va da sé, uno scriba, quindi colui che riportava sul papiro le parole di sacerdoti e faraoni, ma quello che appunto incide di più, oltre che sul papiro, nella nostra osservazione, è la postura perfetta di questo lavoratore, sì, perché sta trascrivendo con grandissima attenzione, la concentrazione, il suo sguardo fisso sull'oratore impegnato nel suo eloquio, e la concentrazione che non perde una sillaba, pronto a trascrivere su questo rotolo in una postura dritta. Sembra un atteggiamento di meditazione, ma in effetti probabilmente è un entrare anche all'interno dell'eloquio, un dialogo silenzioso tra chi trascrive e chi appunto detta o pronuncia la parola. È un elogio della scrittura a mano, che è importantissimo ai giorni nostri, in quanto attraverso questo, io adesso non sto a portare esempi perché attraverso la scrittura capiamo il carattere, non sono così appassionato di intuire attraverso la grafia il carattere delle persone, ci mancherebbe, però indubbiamente preferisco sempre prendere appunti, scrivere con carta e penna, portare lo scritto e non un video davanti alle mie dirette, fare diretta con i magazine senza riprendere gli articoli online, questo anche per motivi di contenuto. Ma quello che porta invece dal punto di vista caratteriale la realtà della scrittura è la conoscenza. Ognuno di noi ha una grafia, calligrafia dipende, perché calligrafia vuol dire bella grafia, no? Mentre la grafia è lo scrivere dall'etimo greco, per cui ognuno avrà il suo modo e la sua personalità, ed è una comunicazione anche per identificarsi. Quanti di noi a volte è capitato, no? Questo l'ha scritto il mio amico, questo l'ha scritto, sì, perché riconosco la grafia. Indipendentemente che sia forbita, elegante, con ghirigori, con svolazzi, oppure minimale, a linee ben precise, o anche come spesso viene definita, a zampa di gallina, l'importante è che sia un'identificazione, no? Io riconosco lui da questa, non voglio fare l'indagatore, è assolutamente improprio questo termine, non ne ho le capacità, però per quanto riguarda il riconoscere, la grafia era qualcosa che aggiungeva un valore alle caratteristiche personali della persona. E poi adesso non sappiamo nemmeno più perché scriviamo il messaggino, scriviamo sul tablet, mandiamo la mail, e quindi questo aspetto purtroppo, non dico si sta perdendo perché non si perderà mai, però certamente è caduto un po' in disuso. Pensate, lo scrivere è caduto in disuso, se non fosse che adesso scrivono tutti per quanto riguarda l'aspetto letterario, però insomma questo è un altro discorso che magari intraprenderemo poi nel voltiamo pagina. E tra poco prenderemo invece in esame, in diverse sfaccettature, un altro tipo di narrazione, quella fiabesca. A tra poco. proposito di fiabe, qualcosa che, anche se non doveva incutere timore, orrore, direi, andrei oltre al semplice timore. Sto esagerando con l'R, ma non è colpa mia se questi termini le contengono, è colpa mia perché non la pronuncio bene, ma questo è un altro discorso. Addirittura parlai con un logopedista, mi ha detto te la tieni, non c'è niente da fare, quindi pazienza. Allora, tornando al filo conduttore di questi articoli che ho trovato dalla lettura del Corriere della Sera, sono dei long format per un personaggio delle fiabe fondamentale. Questo è un fondamentale, un classico nel jazz, è uno standard jazz, se vogliamo, della favola, no? Sto parlando del famoso burattino di Pinocchio. Già a pagina 2 inizia: c'era una volta un burattino che valeva 1000 lire. Poi vi spiegherò anche il perché per quanto riguarda le varie riproduzioni che sono arrivate per prendere l'immagine dal lavoro capolavoro di Collodi, che appare deluso dal risorgimento. Nel romanzo La giustizia fa il contrario di quello che Pinocchio si aspetta, e tutti i volti del burattino sono un'autobiografia italiana. Sì, questo lo condivido. Beh, genio Geppetto fu il primo designer. Imbuti, vasi, sgabelli, portacandele, Pinocchio si presta a molteplici versioni anche in oggetti di uso quotidiano. Il Museo dell'Adi a Milano a lui e al suo papà dedica una mostra. Sì, è diventata un'icona, e figuratevi, lo stesso Walt Disney cercava di prendersi i diritti per quanto riguarda questo capolavoro italiano di Collodi. Tra l'altro è molto bello anche il parco che vi è a Collodi dedicato a Pinocchio. Questo parlo per chi ha figli in giovane età. Sicuramente il labirinto di Collodi è qualcosa che rapisce e che porta via in tutti i sensi. Beh, stavo dicendo se qualcosa vi portava preoccupazione, timore per quanto riguarda la vostra infanzia, anche se non era creato per portar timore, non era un mostro, non era il babau, non era qualcosa di terrificante, tutt'altro. Non so, a volte sono i clown, mi vengono in mente, che a me non hanno mai fatto paura. Però per quanto riguarda le avventure di Pinocchio, lo sceneggiato televisivo tratto ovviamente dal romanzo di Carlo Collodi, fu diretto allora da Luigi Comencini nel 1972, quindi tutta la famiglia, nonni compresi. Tra l'altro oggi è la festa dei nonni, correggetemi, quindi ogni giorno è dedicato a qualcosa o a qualcuno, quindi facciamo i nostri più cari auguri ai nonni, una piccola divagazione. Però ricordo questa mega riunione familiare perché c'era la prima puntata di Pinocchio, ok? Quindi Geppetto interpretato da Nino Manfredi, la fata turchina era Gina Lollobrigida, e questo ciocco di legno, questo piccolissimo tronchetto che a forza di intagliare, di costruire, di modificare, a un certo punto prende vita. Ok, panico, io scoppio in un pianto disperato. Da lì in avanti, vi dico la verità, sarà anche un'immagine, un'icona, rappresenta tante cose, ma io ho un terrore folle di Pinocchio. Lo vedo sempre un pochettino con sospetto. Ma anche i contenuti della fiaba poi non sono proprio così rassicuranti. The stars light up my life. The stars light up my life. So bright. Everlasting. up my life. Bass alla scrittura elettronica, in questo caso The Cinematic Orchestra Evolution, dal disco Everyday per Ninja Tune. Accompagnerà la pubblicità, sì, esatto, messaggi che arrivano, immagini, racconti che non sono destinati a intimorire, se vuoi a insegnare, a dare una morale, però in questo caso ha colpito la mia fantasia in maniera assolutamente, hanno provato a darne un'interpretazione, l'oggetto inanimato che improvvisamente si muove, insomma, quando ho visto questo piccolo pezzo di legno iniziare a muoversi, io sono scoppiato coprendomi gli occhi in un pianto terrificante, piano, era il 1973, quindi avevo 4 anni, ecco. Però se me lo ricordo, evidentemente ha colpito. C'erano alcuni miei compagni che erano terrorizzati dalla nonna travestita da Befana, ecco, cose un po'... Ecco, invece la Befana, io ebbi un'esperienza, uno dei giorni più belli della mia infanzia, il nonno vedendola travestita, insomma, si sono mosse un po' di fantasie, non vi dico com'è andata a finire, però il nonno si è divertito, ecco. Anche lì mi hanno coperto gli occhi, ma per altri motivi. Comunque, tornando piuttosto che a queste vicende di vita vissuta vera, peraltro, e parlando di Pinocchio, a pagina 8, come tutto ciò poi può essere declinato in tante accezioni, Pinocchio, un fanta horror, vedi mo che non ho tutti i torti, Lies of P, le bugie di P, cioè di Pinocchio. È un gioco, è assai macabro, ma guarda un po', è disperante, mai lirico nella sua elegia di una città che cade alla rovina. Non veicola messaggi educativi, ma un'idea di malattia dell'infinito. Sì, da quel che ho capito, è una sembra poi, no, che questi fan delle robe avanti, però è l'idea dell'automa, sono dei pinocchietti ribelli che mettono in difficoltà l'essere umano. Da quel che ho capito è un videogame che viene riportato a pagina 8 in Ultra Oltre di Alias, ovviamente non lo conoscevo, e che mettono al bando gli esseri umani che sono costretti a vivere ai margini in una società dominata dai Pinocchio. Up my life 3 3 3 1 8 0 9 4 9 4. Insomma, se volete scrivermi a questo punto quando qualcuno viene criticato perché è vestito in spadino, oppure che significa è uscito così in spadino, che cosa si intende a proposito di abbigliamento. Aspetto le vostre risposte, perché abbigliamento e tessuti per voi ho messo in palio il premio Goncourt come libro d'esordio, come romanzo d'esordio per il 2022 di Etienne Kern, Il sarto volante, da ritirare presso la libreria Ubic di Viernerio 27 a Bologna. Che si intende quando ricevete la critica e dai, per forza sei uscito così in spadino? Che si intende a proposito della abbigliamento? 333-180-9494. Aspetto le vostre risposte. Intanto pubblicità. Ringrazio la prof, ma meno male, però preciso Silvia che non è che la copia che arriva al Breakfast Club sia la versione unica e non ne stampano più di quel lavoro. Sì, l'abbiamo già presentato, Il sarto volante, un libro molto bello che ho letto anch'io. Questa è la mia copia, anch'io ho un problema in casa che non so più dove mettere libri e dischi. Allora ho detto, beh guarda, ieri facendo le pulizie ho trovato anche la fascetta, ho detto pensa un po', lo ricompongo in tonso come era prima e lo metto in palio per i magazine, visto che insomma con determinati abbigliamenti nei cambi di stagione può essere anche motivo di quiz, perché no? Non è che ci sia solo la copia che abbiamo messo in palio nella tua presentazione, guarda caso qui ne ho un'altra, per cui perché no? Spero non la vinco, chi l'ha vinto l'altra volta, chissà, non è detto. That night. E nuovamente con i magazine del lunedì di inizio mese, 2 ottobre, alias edizione domenicale. Siccome invece il Voltiamo Pagina avrà come protagonista una scrittrice romena, qui abbiamo uno scrittore romeno a pagina 5, un romanzo collage basato sulla novella fantastica. Stiamo parlando di fiabe, favole, novelle fantastiche, quindi il filo conduttore c'è, di Von Camisso, spero di averlo pronunciato bene, il cui protagonista, eccolo qua, che scende a patti con un diavolo, diventa il referente del personaggio autobiografico di Norman Manea, L'ombra in esilio, edito dal Saggiatore. Allora, questa favola che vede un protagonista veramente molto povero, che si ritrova alla mercé di una situazione sentimentale che non può reggere, che fa? Chiede al diavolo di poter avere un aiuto, ma sapete, il demonio non è che si dimentica i conti, o chiede qualcosa in cambio subito e poi l'anima dopo te la scordi, non è che sia un prestito con lunga scadenza, no, anzi questo demonio chiede subito al malcapitato: ok, io ti aiuto, ti do una borsa dalla quale puoi estrarre in continuazione monete d'oro, sempre ne avrai in continuazione. Accidenti, lui non resiste e dice: che vuoi in cambio? In cambio? Tutti aspettate l'anima, eh? No, vuole la sua ombra. Chiede l'ombra. Ma com'è? Per così poco? Ma certo, io voglio subito questa borsa che contiene un tesoro infinito, una borsa senza fondo dalla quale estrarre monete d'oro in continuazione. Ok, affare fatto. Beh, lui sarà esiliato, L'ombra in esilio, qua già il titolo è abbastanza chiaro, di Norman Manea, pagina 3, per l'approfondimento sugli scrittori dall'est Europa, siamo in Romania in questo caso. Porterò al Voltiamo Pagina un libro molto particolare, edizioni Keller, di una scrittrice rumena. Comunque, restando al lavoro di Manea invece, di cui vi sto dando un'anticipazione in quanto a pagina 3 di alias del manifesto, come vi ho detto, poi non è che si scende a patti con il demonio e va tutto liscio, no, assolutamente. Il personaggio verrà esiliato perché chi è vicino a lui dice: ok, è ricchissimo, ma questo, per me c'è qualcosa di strano, avete fatto caso? Lui non ha l'ombra, quando il sole tutti noi abbiamo la nostra ombra, lui no, lui non riflette l'ombra su di lui. Lo allontanano. Lo portano lontano dal villaggio, non devi più stare con noi, e anche la fidanzata, che insomma in maniera importante ha inciso nella sua vita, lo lascia: no, non voglio più avere a che fare con te, tieni le tue monete d'oro, ma con una persona maledetta, sei senza ombra, non voglio assolutamente avere una relazione. E porterà da solo, ma non ha un finale poi così triste, in quanto lui dice: che brutto affare che ho fatto, allora sì, faccio un dispetto al demonio, tutto il denaro che mi ha lasciato e che potrò estrarre da questa borsa senza fondo io lo adopero per creare beneficenza per i poveri, per i disgraziati, per i diseredati, per le persone che non hanno nemmeno da mangiare, lo metterò a loro disposizione. Vedete, ho trovato un modo. Ne sa una più del diavolo il personaggio di Norman Manea. Some people having a gas. But if there's one thing you gotta concede, you got to know who's driving your car. You get to sixth gear with your foot on the floor. Insomma, che vuol dire uscire in spadino? Devo dare un altro libro a Dino? Sicuri? Lo vince Dino? Nessun altro sa che vuol dire o che significa quando si riceve la critica? Ah, sei uscito in spadino. Guarda quello, con sto tempo è uscito in spadino. È uscire senza cappotto nonostante il freddo e farlo per spavalderia. Esattamente. Allora, Dino, adesso mi dici da dove deriva tutto ciò. Thousands of people are regularly turning it out. And it's easy to find when you mess with your mind. E concludo con tutto quello che non sono io, cioè smart. Perché io, ad esempio, non saprevo che smart è un acronimo. Swatch, Mercedes e Art. È un lessico esistenziale. Uno scrittore riflette sull'uso, abuso e reato. Il significato di due termini come multitasking e smart con annesso telefono e come sta cambiando la percezione di noi stessi, magari il rivoluzionario di domani avrà un libro in mano e lo smartphone disconnesso. Sì. Deriva dal fatto che un tempo, per causa della situazione di delinquenza, si doveva purtroppo uscire protetti anche da armi, quindi uscire unicamente con un piccolo stiletto si rendeva vittima oppure in preda di qualcuno che volesse rapinare o aggredire. Quindi ti sei portato dietro solo uno spadino, sei uscito scoperto, nasce da quello, de foreign spaden, e da lì appunto si è poi traslato questo modo di essere disarmati, chiamiamolo così, all'abbigliamento per il freddo e per le intemperie. Questo è il motivo di quiz di oggi. Hai vinto tu, Dino. Ok, puoi andare da Ubik. La strada, te la devo dire, o la conosci? Vi ricordo, anzi vi anticipo, il Move to Groove domani martedì, e se in ascolto abbiamo Paolo Onofri aspetto il personaggio da portare in monografia per gli auguri di buon compleanno. I hear babies making it with babies, and I hear buddies lying to their friends. Well, politicians, life for politicians. competition. And I don't see the puntualissimi end. Alle 7 vi aspetto per fare colazione in diretta assieme al Breakfast Club, ringraziandovi per l'attenzione, per aver condiviso il pasto più importante della giornata con Radio Città Fujiko, radiofonicamente parlando. Vi rinnovo un augurio di buona settimana e un buon mese d'ottobre, essendo questa la prima colazione del mese che facciamo assieme, e lo allego, visto che abbiamo gli allegati dei principali quotidiani oggi protagonisti, io posso allegare tutto ciò con un caloroso abbraccio a voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Fujiko, e vi do appuntamento a domani alle ore 7. Ciao a tutte, ciao a tutti, dal vostro William Piana. Ciao. Got misters beating up on sisters, and we got crazies waiting for the end. We got answers giving out no answers, but I can't see the end. No.